Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Continuiamo a tenere sott'occhio lo sviluppo delle tecnologie additive, ovvero della stampa 3D, che passa anche per lo sviluppo di nuovi materiali di stampa. Non c'è dubbio che negli ultimi anni se ne siano resi disponibili parecchi, si va dal tradizionale ABS, insomma dai polimeri alla pasta di legno, all'argilla, ai materiali compositi fino ai metalli, ma in realtà è stata a malapena scalfita la superficie di un mondo molto più vasto. E proprio nel settore metallurgico, che in Italia tra l'altro soffre da anni, c'è uno spazio significativo per sviluppare nuovi materiali per la stampa 3D. Si tratta in generale di speciali polveri, come sta per spiegarci Dante Poci, che è esperto di materiali innovativi e tecnologie di fabbricazione del CSM, il Centro Sviluppo Materiali. Buonasera Poci. Buonasera. Senta, prima di entrare nel merito di queste polveri, le chiedo di descriverci brevemente il processo di stampa in cui vengono utilizzate. Il processo di stampa è abbastanza semplice. Siamo in presenza di una vasca piena di polvere metallica, di un laser che insiste nella parte alta di questa vasca. Il laser lavora sinterizzando, portando a fusione queste polveri e si costruisce solo lo strato superficiale. Ogni volta il laser disegna lo strato superficiale facendo fondere queste polveri. Sì. E a questo punto cosa succede? Succede che poi la vasca si abbassa di pochi micron e si costruisce il secondo strato. Le polveri ricoprono nuovamente lo strato già solidificato, il laser ripassa e strato dopo strato si crea questo oggetto. Quindi... E alla fine si ottiene un oggetto finito tridimensionale. Poi ci sono tutta una serie di attività di pulizia, di finitura dell'oggetto. Perfetto, quindi che è una specie di aggregato di polveri fuse. Ecco, veniamo quindi a queste polveri. Che cosa offre oggi il mercato? Beh, la situazione delle polveri è una situazione in cui c'è uno spazio per fare innovazione molto grande, perché di fatto le composizioni che oggi sono presenti in commercio vanno dalle 20 alle 30 composizioni. E questo lascia appunto dei margini di manovra, di intervento molto elevati. Quindi sono dei mix di metalli diversi e dice ce ne sono una trentina, probabilmente si potrebbe arrivare alle migliaia se volessimo invece, no? Sì. Chi è che le produce? Arrivare. Queste polveri dei sistemi di additive manufacturing in realtà vengono fornite dai costruttori di queste macchine. E normalmente i produttori di polveri sono negli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra prevalentemente. Tra l'altro sono costi molto elevati, centinaia di euro al chilo per sì, queste polveri. Dipende dal tipo di lega, andiamo da valori molto elevati per le leghe di titanio a valori più bassi, comunque elevati, per gli acciai o le leghe di alluminio. Insomma, c'è un grande spazio sia di ricerca e sviluppo che di business per un'impresa metallurgica, dicevamo, un settore che in Italia... Sì. Non gode di ottima salute. C'è uno spazio che è legato allo sviluppo di queste nuove polveri e soprattutto alla fabbricazione, alla possibilità di introdurla all'interno di queste macchine. Parlare di introduzione di nuove polveri significa risolvere una serie di problemi che si possono incontrare, perché non è detto che questi oggetti che vengono fuori da questi sistemi siano perfettamente integri, possono verificarsi deformazioni o piuttosto che rotture. E qui proprio la competenza che serve è quella di chimica e fisica necessaria a identificare i mix di polveri giusti. Se ho capito bene, no? Sì, si tratta proprio di far nascere e sviluppare una metallurgia dell'additive manufacturing, quindi avendo presente le caratteristiche del processo di fabbricazione degli oggetti, adeguare le composizioni chimiche al processo. In attesa che comincino anche i produttori di macchine magari ad adeguare le caratteristiche del processo a delle polveri. È fondamentale un dialogo tra i costruttori di macchine e nuove composizioni che si affacciano all'orizzonte, quindi passeremo dalle 20 alle migliaia di composizioni che possono essere, quindi una nuova era per l'additive manufacturing. Dunque oggi gli oggetti prodotti con queste tecnologie naturalmente non hanno funzioni di prototipo, qui parliamo di pezzi funzionanti, addirittura si producono parti di aereo oggi con queste tecnologie. Vorrei capire se c'è un problema, diciamo così, di certificazione, di validazione di questi pezzi, o se esistono procedure chiare oggi come oggi per certificare l'utilizzo, omologare un pezzo. Allora, a livello europeo esistono delle piattaforme sull'additive manufacturing che si occupano proprio di certificazione dei prodotti, quindi significa associare ai sistemi con cui si producono gli oggetti una procedura di qualificazione e certificazione dei prodotti. Sicuramente sono in evoluzione e l'obiettivo è proprio fare in modo che il prototipo da estetico o funzionale diventi un prototipo tecnico e quindi poter essere montato dentro una turbina, sia essa industriale che aeronautica, o un componente che può essere una protesi d'anca, c'è un codice di caratterizzazione e qualificazione molto preciso. Molto preciso, va bene. Grazie Dante Poggi. Prego. Bene, abbiamo concluso anche per questa sera. Appuntamento, come sempre, a domani.